Si riparte, questo è Chi fa da sé, fa per te e raccontiamo storie di quotidiana sopravvivenza e come ogni venerdì dalle 10.30 alle 11.30 insieme a me avrò un ospite. E già, un ospite sono venuti in tanti, ogni settimana qualcuno di diverso, scrittori, produttori, registi, musicisti, tutti con un filo conduttore. Sono realtà indipendenti che con coraggio e compassione portano avanti i loro progetti. Oggi con me abbiamo colui che ci aiuterà a scoprire, a svelare così un personaggio antropologico che vogliamo un po' indagare, cioè il traduttore, perché nell'immaginario collettivo viene così un po' dipinto come personaggio solitario dietro al PC oppure dietro una macchina da scrivere, se siamo un po' più così molto retro, vintage. Molto vintage, esatto. Però sicuramente, insomma, sono animali sociali come noi, giusto Vincenzo? Quello lo andiamo a scoprire, perché non siamo tutti uguali. Allora siamo qui oggi con Vincenzo Piro e ci racconterà, ci aiuterà a svelare, insomma, l'animo di questi traduttori che hanno un compito molto pesante, perché devono tradurre il messaggio del vero mittente. Certo, e soprattutto rendere chiaro quello che in genere non è mai chiaro, già in partenza, quindi sicuramente sicuramente possiamo dire che conoscono spesso i libri meglio di chi li scrive. Assolutamente sono vero. Dei maghi con le parole e sono dei maghi con i macchinari. Con non i vi macchinari. Aspettereste quante cose sappiamo fare rispetto agli altri. Attenzione, e di solito non si sa mai che faccia hanno, ma in questo caso essendo in radio non possiamo aiutarvi. Mi dispiace. Manterremo magari dopo facciamo una foto così svegliamo. Si può fare. Ho tagliato la barba, quindi è posto. Attenzione, infatti in questo senso sicuramente tu puoi dare l'aria dello scrittore, no? Del traduttore che sta dietro al PC così, o del senza magari detto. Con la pipa. Quello devi sceglierlo tu. Addirittura. E tu, insomma, dici che ho esagerato nel così descrivere nell'immaginario collettivo il traduttore, oppure c'è qualche elemento che collega? Beh, il lavoro del traduttore è un lavoro che impegna quotidianamente e non sai mai quando ti arriva il lavoro. Chi lavora come freelance, diciamo che tutti i giorni è in attesa che arrivi qualche chiamata, qualche email, dica dai che questa settimana si lavora. E poi magari quando stai per partire per le vacanze, improvvisamente arriva. Cioè quando vorresti non avere lavoro. Brava, proprio così. Arriva quella montagna di lavoro che non puoi rifiutare, perché altrimenti le bollette la settimana successiva non ci le vai. Paghi. E quindi ovviamente ci sono questo tipo di problemi. Infatti mi sono sempre chiesta, soprattutto a livello di traduzione, se c'è ovviamente un ambito che può dare maggiore soddisfazione. Sicuramente magari un romanzo, non so se ti è mai capitato. Allora, io lavoro in un'agenzia e la nostra agenzia è specializzata in traduzioni tecniche, commerciali e legali. Quindi i romanzi non arrivano molto vicini da noi. È un mondo a parte, meraviglioso, che però soltanto pochi riescono davvero anche solo a sfiorare. Quello che ti dà più soddisfazione a fine mese è i settori che affrontiamo noi, che invece sono quelli un po' più noiosi, sì, in genere. Quindi andiamo proprio sul tecnico, quindi sì, devi avere tecnico, una preparazione linguistica molto specifica. Si impara, nel senso che tutto, allora, se una persona è curiosa, impara, migliora, scopre e riesce a trovare quello che sta cercando. Mi piace l'elemento della curiosità. È la cosa fondamentale nel nostro lavoro. Se una persona non è curiosa, non riuscirà mai a trovare la parola giusta. Allora, voi dovete sapere, anche tu Vincenzo, che questa è una biografia musicale. Infatti ti ho chiesto di portare qualche brano, perché partiremo da questi per capire anche un pochino di più se c'è una connessione tra la tua personalità, la tua carriera e il brano che hai scelto. Però io di solito metto anche un po' in difficoltà i miei ospiti, ecco, perché ci piace così. E ti pareva. Perché in realtà io devo testare se veramente siete coloro che dite di essere, cioè che fate da voi alla fine, insomma. Dovete farmi anche la puntata, voglio dire. Se tu fai per me e io faccio per te, come minimo ci diamo una mano a vicenda. Sono qua apposta. Esatto. Allora, siccome dovete sapere che Vincenzo mi ha mandato i brani ma non mi ha specificato gli autori, quindi in questo caso è stata una lama a doppio taglio, perché avrei potuto inserire anche delle cover. E infatti inizialmente come primo brano mi hai dato Whiskey in the Jar, che immagino tu volessi inserire qua dei Metallica. Sì. Esatto. Però sai, essendo questo in realtà una canzone tradizionale irlandese, sì, io ho scelto questa e poi te la farò tradurre. No. going over the far-famed Kerry Mountains. I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier. Take stand and deliver, for you are a bold deceiver. Mushering the Newland. And it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering the doodle-da. Why call the daddy-o? Why call the daddy-o? There's whiskey in the jar. I went unto my chamber all for to take a slumber. I dreamt of gold and jewels, and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering the doodle-da. Why fall the daddy-o? Why fall the daddy-o? There's whiskey in the jar. 'Twas early in the morning, just before I rose to travel. Up comes a band of footmen, and likewise Captain Farrell. I first produced me pistol, for she'd stolen away me rapier. But I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushering the doodle-da. Why fall the daddy-o? Why fall the daddy-o? There's whiskey in the jar. Now there's some take the light in the carriages a-rolling, and others take the light in the Harley and the bowling. But I take the light in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning bright and early. Mushering the doodle-da. Why fall the daddy-o? Why fall the daddy-o? There's whiskey in the jar. If anyone can aid me, 'tis me brother in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny. And I'm sure he'll treat me better than me own me sporting Jenny. Mushering the doodle-da. Why fall the daddy-o? Why fall the daddy-o? There's whiskey in the jar. Mushering the doodle-da. Why fall the daddy-o? Come cogliere di sorpresa gli ospiti con scelte così che non ti aspettavi. Infatti, Ma la cosa bella, dicevi appunto prima, è la curiosità che ci deve animare. Quindi giusto, almeno ogni volta che mi portano dei brani io poi vado a indagare. E ho scoperto che questo brano appunto è una canzone tradizionale irlandese che risale più o meno al XVII secolo. E è una ballata, non so se tu ovviamente sei riuscito a sentire un po' la traduzione così simultanea, ti ho visto concentrato. No, non sono così bravo purtroppo, ma mi piacerebbe, ma però, non è quello, insomma, il mio mestiere. Più o meno hai capito di cosa si parla? Qualcosina, diciamo che appunto c'è questo bandito che è stato tradito e quindi diciamo è ferito. Cerca un pochettino di pensare ad altro. Esatto, sì. Per esempio potrei rubare ai ricchi per tenermelo poi per me. Una sorta di Robin Hood. Certo, scusa, come fa altrimenti a guarirsi questa ferita nel cuore? Giusto, esatto, infatti è proprio così. Cioè si narra appunto che il popolo delle isole britanniche ammiravano i briganti locali, perché appunto sottraevano i danari per poi però tenerseli per sé. Era una sorta di Robin Hood un po' così particolare. Quello è il sogno di tantissime persone. Ma appunto oggigiorno non so quanto convenga divertirsi in modi del genere. No, manteniamoci sul lato musicale in questo senso. E quindi per quanto ti riguarda, la tua carriera da traduttore nasce fin da subito, oppure in realtà ci sono state un po' di vicissitudini? No, è un percorso allucinante, nel senso che come tanti appunto non sapevo che cosa avrei fatto da grande fino a che non ci ho sbattuto la faccia. Ho fatto un corso come diagnosta nel restauro, ho fatto un anno di biologia e poi sono approdato a lingue orientali. E lì c'è stata la svolta. C'è stata la svolta perché ho fatto finalmente una cosa che mi piaceva di più. Una cosa che mi piace di più al mondo è poter comunicare. Nel senso, trovare il modo di trovare un contatto con la persona qua accanto che sta cercando di dirmi qualcosa. E appunto imparare le lingue ti permette di fare questo, potendo imparare, le imparerei tutte quante, ma... Fino adesso a che numero sei? Adesso stiamo andando verso i 4. Attenzione, quindi abbiamo... Italiano. Italiano che se non si sa quello non si va da nessuna parte. Almeno qui. L'inglese, il giapponese e poi mi arrabatto un pochettino tra il tedesco e il portoghese. Ah, addirittura, quindi sì, insomma sì. Nel senso... anche il giapponese. Sì. Quindi giapponese. A livello poi tecnico, mi dicevi, deve essere ancora più... Sì, sì, è molto particolare, molto impegnativo, diciamo. Sì, non è una cosa è che... È un altro mondo. È un altro mondo. È proprio un altro mondo. E quindi la tua scelta di whisky in the jar era per affogare i dispiaceri del whisky, visto in verità, il giapponese. È la carica, appunto, una carica per lanciarsi e fare cose che prima non avresti fatto. Mi sono lanciato tante volte, appunto, in cose che... cercando un po' la mia strada, e l'ultimo lancio importante che ho fatto è stato trasferirmi proprio a Bologna. E tu prima eri invece a Roma. A Roma. Forse chi mi ascolta riesce un pochettino a intuirlo, sì. Però sei di origini? Sono praticamente cresciuto a Roma, i miei però sono siciliani. Ah, ecco, perché dovete sapere che la prima chiamata di Vincenzo, quando gli ho lasciato il numero, è stata: guarda Elisa, scusami, ma ho appena sbagliato il tuo numero, ho chiamato un siciliano. Io, vabbè, perfetto, siamo sulla cresta d'onda. E quindi da Roma tu ti sei trasferito qui a Bologna, quindi sì. Già il passaggio è stato un attimino... Sì, è stato un po' impegnativo, infatti. Però hai trovato subito la tua strada anche qua a Bologna. Sì, sì, sì, sì, nel senso che ho fatto un corso qui proprio per traduttori e poi l'agenzia con cui ho fatto il corso mi ha detto: vieni a lavorare un pochettino. Però, e non ti hanno neanche chiesto di tagliarti la barba, guarda, sei veramente fortunato. Non l'avevo. Ah, però avevo i capelli lunghi. Ah, vedi? Era allora, la distribuzione che cambiava. Ok, però comunque la quantità era sempre la stessa. Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi... Ora forse, anzi, mi dovevi vedere l'altro ieri. Ah, attenzione. Allora, noi ci sentiamo il prossimo brano, così ci farai scoprire anche tu se in questo senso abbiamo altro da scoprire. Certo. For a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man in a town full of get rid of the sound. Un'evoluzione non solo a livello di carriera, ma anche a livello personale. Questo brano sicuramente... Sì, questo brano appunto è la spiegazione della crescita, nel senso che questa persona che si guarda intorno e vede un mondo di plastica, effettivamente, che però vorrebbe cambiare, cerca di, come dice appunto, se potessi essere quello che vuoi tu tutto il tempo, cosa? Saresti più contenta? Sarei più contento? Chi lo sa? Questo lo lascio un pochettino a chi al mood di chi ascolta questa canzone, appunto Thom Yorke. E a me ha fatto capire che posso decidere un po' cosa essere, non sono un essere di plastica, ma una persona, ma capire che cosa sei e che cosa vuoi ce ne vuole. E ha voglia, è un percorso infinito. È infinito. E anzi, vero. Penso sia il percorso che ci spinge al raggiungimento ogni giorno. Sarebbe anzi bello che uno riuscisse a ragionarci bene su questo percorso, se si soffermasse un po' di più. Sì, anche perché, come mi dicevi, soprattutto nel tuo lavoro, chi traduce ha la possibilità di avere a che fare con tomi e tomi infiniti, sì, che trattano argomenti più disparati. Sì, è proprio le cose più diverse. Va da un aspirapolvere a un mandrino industriale. Cioè, ci sono cose che vanno oltre l'immaginazione delle persone comuni. Quindi tu giustamente ti fai una cultura alla fine. Sì, cioè, quella è una cosa continua, nel senso che tu continuamente, mentre traduci, ti rendi conto che ci sono cose che non sai, che ignoravi, proprio non neanche ti passava nell'anticamera del cervello che esistessero. Cioè non che tu sapessi di non sapere, non potevi neanche saperlo perché non ne conoscevi. Non le immagini, zero. E in questo ti vengono incontro appunto i colleghi che magari lavorano da più tempo di te e ti hanno quella pacca sulla spalla, tipo dai, non sei da solo, sì, ci siamo anche noi. No, ma anzi, no, che loro ne sanno magari molto di più e ti stupisci perché dicono, loro sono traduttori come te, come fanno a sapere queste cose che non c'entrano nulla? Però avendo anche loro ormai alle spalle tomi e tomi di traduzioni di ogni tipo di tecnica, può aiutare. Grazie a loro che riesco a non impazzire tutti i giorni, perché effettivamente ne sanno una montagna, ne sanno davvero davvero tante. E c'è una lingua in particolare che ti fa scoprire anche poi a livello proprio sociale, culturale, come approcciano anche, perché immagino che anche a livello strutturale siano impostati in modo diverso e quindi entri anche nella mentalità poi delle... Sì, quello sì. Io poi ho una mia teoria, ma appunto poi i linguisti là fuori si faranno grassissime risate quando la dirò adesso. Però appunto, se uno pensa alla struttura del tedesco, per esempio, no? E si rende conto che tutto quanto la frase deve finire per capire il significato di quello che viene detto. E perché deve finire? Perché loro sono abituati ad aspettare in un posto freddo, dove nel corso dei secoli e dei secoli la gente era legata molto al ritmo delle stagioni, al ritmo del tempo. Se tu non sei capace di aspettare, non ti arriva assolutamente nulla, nel senso che basta un raccolto sbagliato e muori di fame. Basta che appunto trovi un'estate troppo calda e il raccolto ti si rovina anche in quel modo. Quindi devi dare tempo a tutto e anche alla comunicazione. Beh, alla fine il pensiero è il linguaggio, quindi proprio così. Se il linguaggio è pensiero, è un circolo che si alimenta. E infatti le lingue invece mediterranee, quelle latine soprattutto, l'italiano, lo spagnolo, l'ordine è molto libero. Il tempo c'è, la vita scorre bene, in genere appunto sei fortunato, vivi in un posto pieno di sole, ottimo, ce l'abbiamo. Sì, a parte la neve di qualche giorno fa che ci ha fatto penare tutti quanti. Ma per fortuna insomma è stato così, toccate e fuga. Un'illusione quasi. Sì, sì, sì, sì. Un gioco di magia è stato. E meno male infatti che abbiamo un weekend molto caldo, quindi la neve l'abbiamo fatta sciogliere velocemente. Non avevo guardato le previsioni, ma grazie per questa splendida notizia. Ah sì, anche perché comunque saremo noi a farla scaldare per tutti gli eventi, quindi se non sarà calda la faremo scaldare. Va bene, siamo faccio una voce un po' più calda un po' più, per questi esatto, eventi. Esatto, bravissimo. E allora noi continuiamo con il prossimo brano che lo vedo un po' come un cambiamento, perché se per quanto riguarda per esempio il brano precedente ha dato anche una sorta di svolta alla carriera dei Cure, anche qui abbiamo una svolta nella carriera di Neffa con questo brano che cambia completamente la sua ritmica. Sì. Allora noi intanto ce lo godiamo e poi ritroviamo tra poco. Faccio le ore piccole da quando non ho te, finalmente ho il tempo che mi serve per pensare soltanto a me. E anche se non rispondo più al telefono e l'ho detto ai miei amici e non ci credono, io sto bene da quando non ho te. Non ci sono regole, liti e polemiche. Ho ripreso la routine di sempre, non c'è niente che cambierei. E così mentre i giorni si ripetono e la barba è lunga più del solito, io sto bene da quando non ho te. Eccetto quei momenti in cui non so dire cosa mi succede, perché resto senza orgoglio e penso quanto ti vorrei, quanto ti vorrei. Eh beh, questo posso dire, ovviamente avendo qui un traduttore, abbiamo già il primo refuso, ragazzi, attenzione, perché in realtà non era l'ultimo brano, ma è il penultimo, perché in realtà ce n'è anche un altro. Eh sì, c'era un altro. Non scopriamo troppe carte, anche perché tra poco scatta la pubblicità, quindi lo teniamo per la prossima mezz'ora. Noi lasciamo tutto molto così sospeso. Va bene. E questo brano ci parlerai anche tu la prossima mezz'ora. Ora noi ovviamente siamo qui, nel frattempo io mi farò fare un po' di traduzioni così ci portiamo avanti con i lavori e ci sentiamo dopo la pubblicità ovviamente. Ciao!